Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Padova, a cura di Andrea Canton. Bentornati carissimi ascoltatori a Il bene di tutti, parliamone. Sono Andrea Cantone e vi do anche oggi il benvenuto a questa rubrica curata dall'Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Padova. Scopo di questi minuti è affrontare con lucidità le grosse questioni che pesano sui tavoli dell'economia, della politica e della vita sociale. Eppure la nostra analisi verrà fatta alla luce degli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa, che non parla solo ai cattolici, ma, come ricordano gli incipit delle encicliche, a tutti gli uomini di buona volontà. E proprio gli uomini di buona volontà non possono ignorare che anche chi sbaglia, e anche chi sbaglia pesantemente, rimane un essere umano, con tutta la dignità insita in questa definizione. Il mese scorso la politica è dovuta correre di nuovo ai ripari per risolvere, seppur solo temporaneamente, questo va detto, la situazione drammatica delle carceri italiane. Già nel 2006 il sovraffollamento degli istituti di pena era stato alleviato dalla misura discussa ma votata a stragrande maggioranza dell'indulto. Il cosiddetto decreto svuota carceri non è stato propriamente un indulto, ma nei fatti ha voluto dire per moltissimi un'uscita anticipata dal carcere. Le carceri italiane sono, per loro stessa missione, al limite del collasso. Si muore continuamente per suicidi, malattie e addirittura nel 2012, nel corso dell'emergenza di inizio febbraio, per il gelo. È giusto punire, ma il carcere dovrebbe anche rieducare. Lo fa? Può farlo a queste condizioni? Ascoltiamo che ci dice la dottrina sociale della Chiesa a riguardo. Dal compendio della dottrina sociale della Chiesa. La pena non serve unicamente allo scopo di difendere l'ordine pubblico e di garantire la sicurezza delle persone. Essa diventa altresì uno strumento per la correzione del colpevole, una correzione che assume anche il valore morale di espiazione, quando il colpevole accetta volontariamente la sua pena. La finalità a cui tendere è duplice. Da un lato favorire il reinserimento delle persone condannate, da un altro lato, promuovere una giustizia riconciliatrice, capace di restaurare le relazioni di armonica convivenza spezzate dall'atto criminoso. A questo riguardo è importante l'attività che i cappellani delle carceri sono chiamati a svolgere, non solo sotto il profilo specificamente religioso, ma anche in difesa della dignità delle persone detenute. Purtroppo le condizioni in cui esse scontano la loro pena non favoriscono sempre il rispetto della loro dignità. Spesso le prigioni diventano addirittura teatro di nuovi crimini. L'ambiente degli istituti di pena offre tuttavia un terreno privilegiato sul quale testimoniare, ancora una volta, la sollecitudine cristiana in campo sociale. Ero carcerato e siete venuti a trovarmi. Il brano che abbiamo appena ascoltato ci introduce la figura e le responsabilità dei cappellani carcerari. Abbiamo per l'appunto qui con noi Don Marco Pozza, dallo scorso settembre cappellano del carcere Due Palazzi di Padova. Grazie per essere con noi, Don Marco. Grazie a voi dell'invito e buona giornata a tutti gli ascoltatori. Si sente interpretato da queste parole del Vangelo, ero carcerato e siete venuti a trovarmi, riportate anche dal compendio della dottrina sociale. Come ha vissuto i primi mesi da cappellano? Ma certamente i primi mesi da cappellano qui in carcere non sono stati mesi semplici, perché si tratta di una, tra virgolette, di una parrocchia sui generis, una parrocchia che dentro la scrittura, e poi fa piacere anche dentro il compendio della Chiesa, è molto ben rappresentata da quella citazione che abbiamo ascoltato, ero carcerato e siete venuti a trovarmi. Penso che lavorare a stretto contatto con questi detenuti, con queste persone che nella vita possono aver sbagliato e stanno cercando un una via d'uscita per riprendersi in mano la loro esistenza da protagonisti sia un'esperienza dal mio punto di vista invidiabile che sto facendo, perché nonostante la fatica di essere a stretto contatto con persone che stanno riprendendo in mano la loro vita dopo dei momenti di difficoltà, ci si accorge veramente quanto sia grande la forza d'urto della parola di Dio quando l'uomo è seduto per terra. Ecco allora che la sensazione più bella di questi mesi qui a Padova, ma anche prima quando prestavo servizio a Regina Celi a Roma, è quella di scoprire che certi passaggi del Vangelo, che certi brani della scrittura, quando tu li senti dentro alle parrocchie normali fanno un certo effetto, ma sentirli raccontati, sentirli proclamati dietro alle sbarre di un carcere, l'effetto che fanno è qualcosa di sconvolgente. Uno tra tutti questo, che parla di un Dio carcerato che è stato accolto, è stato visitato, ma anche penso tantissimi altri brani, penso il tempo d'avvento con i brani del profeta Isaia che parlava di pentimento, di redenzione, di foglie avvizzite, di iniquità, e ascoltarli dietro alle sbarre di un carcere mostrano come la parola di Dio sia capace di smuovere le coscienze, ma soprattutto di che cosa sia capace la parola di Dio quando l'uomo è nudo di fronte a se stesso, di fronte alla sua responsabilità, di fronte anche ad una libertà che probabilmente non è stata usata nella maniera corretta durante la vita. Il carcere è sia un luogo di pena, ma è anche e soprattutto un luogo di rieducazione. Quali sono i problemi strutturali, e sono anche grossi, del sistema carcerario italiano, di cui la politica dovrebbe farsi carico per far sì che il carcere non sia solo un luogo di pena, ma soprattutto sia un luogo di rieducazione? Ma io penso che la prima responsabilità, il primo compito che dovrebbe avere la politica è proprio quello di ricordarsi che cosa recita la Costituzione nell'articolo 27, ma ricordarselo non solo a parole quando ci si riempie la bocca di questo bellissimo termine che va sotto il nome di rieducazione. Io penso che a rieducare un uomo sia da una parte la sfida più avvincente che anima tutte quelle persone che per professione o per missione operano dietro alle sbarre, ma sia soprattutto anche il sogno e il tentativo che dovrebbe fare uno Stato per fare in modo che il carcere non diventi un grande parcheggio, non diventi un qualcosa dentro al quale, un non luogo dentro al quale rinchiudere delle persone con la pia illusione che il semplice tempo che passa possa diventare motivo di redenzione per queste persone. Ora, secondo me la domanda va posta in un'altra maniera, la domanda potrebbe essere questa: come possiamo parlare noi oggi di rieducazione dentro ad un carcere quando noi per primi viviamo in uno Stato che non è educato? Ecco allora che se il compito della rieducazione è un compito già di per sé difficile, diventa ancora più difficile perché poi noi ci troviamo a misurarci fuori con un sistema umano che ti lascia un grande sospetto a volte, ovvero sia quello di chiedersi, io tante volte me lo chiedo alla sera quando esco dopo magari tanti colloqui fatti con i detenuti, dove ci sia più grande libertà, se la libertà più grande le persone ce l'abbiano in un luogo di restrizione o ci sia dentro ad uno Stato che ancora ci ostiniamo a definire libero. Ecco allora che questo è il problema più grave, secondo me la radice di tutto il resto. Poi gli altri problemi sono sotto gli occhi di tutti: il sovraffollamento, i diritti umani che tantissime volte, se non sono violati, ci manca poco. Però il mio pallino è, il mio sospetto è che tante volte ci nascondiamo dentro questo grande problema del sovraffollamento che c'è, che è a Padova, che è un problema pesante perché ci impedisce di avere le condizioni per poter lavorare bene, però non vorrei che diventasse quasi lo specchietto del all'odore dietro al quale nascondere un disinteresse grandissimo che c'è nei confronti di questa realtà. Ora, come si fa a tentare di rieducare queste persone? Io penso che giunti a questo punto della loro vita, in questo grande, tra virgolette, parcheggio nel quale la giustizia li ha relegati, io penso che l'unica arma che noi ci abbiamo in mano, e lo dico da uomo di fede, da uomo che ha avuto il dono della fede, sia l'arma dell'amore e della parola di Dio. E queste persone, io devo ancora trovarne una che mi abbia raccontato di un'infanzia felice, di un passato felice. Ora la sfida che ci si propone davanti a noi è quella di cercare di andare oltre al crimine commesso, al presunto crimine commesso, e andare a cercare di rileggere una storia passata dentro la quale trovare anche le radici di un dramma. E poi tutto il resto, certamente se ci fossero le condizioni, se ci fosse meno affollamento, se ci fossero anche un po' più di possibilità dentro dalla manualità delle proposte anche di pensiero, proposte che potessero anche aiutare aiutare la persona a reintegrarsi, a riprendere in mano la loro vita, certamente ne saremmo felici. Ora noi parliamo dal carcere di Padova, un carcere che è detto dai detenuti stessi, non è un bed and breakfast, però certamente è un carcere dove per quello che si può fare ci sono delle possibilità, sono ancora poche, perché in tutto riusciamo a coinvolgere 300 o 320 detenuti, ma ci sono gli altri 500 che sono là, che l'ozio è veramente, ti dimostra come riesci a spegnere elegantemente giorno dopo giorno le persone. Quindi io penso che sia questo il primo tentativo, che non solo che deve fare la politica, ma che deve fare anche la Chiesa, anche la nostra diocesi di Padova, ed è proprio questo, di a ricordarsi che dietro alle sbarre ci stanno degli uomini feriti, delle persone che nei confronti delle quali dovremmo fare veramente il lavoro che ha fatto un Francesco d'Assisi, che noi ci ostiniamo ancora oggi a raccontare solo a metà, perché celebriamo la grandezza e la magnanimità di questo fraticello che si è avvicinato ad un lupo, no, e l'ha domesticato, però raccontiamo anche l'altra faccia della medaglia, ovvero sia la fatica grande che avrà fatto Francesco a bussare alle porte dei cittadini di Gubbio e ad assicurare loro che il lupo non faceva più paura, che era arrivato il momento in cui cercare di familiarizzare anche il lupo insieme con l'agnello, come dice il profeta Isaia. E questa è la fatica grande, perché tu puoi rieducare quanto vuoi un detenuto, ma se poi fuori non è rieducata anche una città, un pensiero, una collettività a prendersi la responsabilità e ad accettare la fatica di riconoscere che un detenuto durante il periodo della pena, okay, è diventato non il migliore uomo del mondo, ma certamente un uomo magari migliore di quello che è entrato, e penso che questo sia un facilitare il loro reinserimento e un facilitare anche la vita della collettività. E proprio per questo, allora, con un gioco di parole potremmo dire che la pena scontata è valsa la pena di scontarla. Grazie Don Marco, ci fermiamo qualche istante e torniamo fra pochissimo. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova. Bentornati carissimi ascoltatori per la 12ª puntata de Il bene di tutti, parliamone. Siamo in collegamento telefonico con Don Marco Pozza, cappellano del carcere Due Palazzi di Padova. Grazie per essere con noi. Grazie a voi dell'invito. Abbiamo parlato di sovraffollamento, abbiamo parlato di ozio, abbiamo parlato di tutti quei gli ostacoli che limitano in qualche modo la dignità dei carcerati, in questo caso degli 800 e passa carcerati del carcere di Padova. Ma qual è l'elemento che invece promuove di più la dignità? Ma io penso, e lo dico anche con un pizzico di sano orgoglio, che qui dentro io e tutte quelle persone che danno la vita attraverso il volontariato e che siamo a stretto contatto con questi detenuti, ci abbiamo una fortuna grandissima di essere persone che nella maggior parte siamo anche animate da questo dono che ci viene dato, il dono della fede. Lo dico con un pizzico anche di orgoglio, dicevo, perché mi sto accorgendo dietro alle sbarre di questo carcere di quanto sia grande la ricchezza, ma soprattutto la potenza provocatoria che c'è la parola di Dio. Tante volte noi lo diciamo, no? Soprattutto quando si lavora con i bambini negli oratori, sì, facciamo fatica, però quello che noi diamo è nulla in confronto a quello che noi riceviamo. Io non lo so se in carcere possa funzionare questa frase fatta che noi diciamo tantissime volte. Certamente il lato bello del carcere è proprio questo, che quando tu entri si cancellano tutte le sfumature, tu vedi il bianco e il nero, vedi il massimo male di cui l'uomo è capace, pace, e vedi anche il massimo bene inimmaginabile che tu non ti aspetteresti mai. Ecco, allora, che la sfida, il lato più bello della mia missione, per esempio di sacerdote, ma certamente penso di parlare anche a nome di tutti i sacerdoti che entrano con passione dentro questo mondo complicato, è quella di poter veramente essere a contatto con l'uomo che è seduto per terra. Tu lo vedi lì, vedi che a volte si piange addosso, tante altre volte ammette le sue responsabilità, qualche volta prende in mano la sua vita e sogna di diventare un uomo diverso da quello che è stato. E assistere a questa risurrezione penso che sia uno dei privilegi che il Signore dà a chi scende dentro questi inferi, dentro a questi nuovi deserti, dentro a queste povertà. E forse qui dentro magari io non condivido tutto quello che dice padre Alex Zanotelli, però certamente c'è una sua espressione che mi ha incuriosito appena ci sono entrato, quando lui disse che i poveri domani ci evangelizzeranno. Penso che ci sono dei poveri che dipendono dall'economia, penso anche che ci siano anche dei poveri di sogni, poveri di aspettative, poveri di desideri, e questi poveri oggi sono diventati i miei parrocchiani. E non giustificherò mai i crimini che i miei parrocchiani possono aver commesso, ma difenderò fino all'ultimo istante che mi sarà concesso quel piccolo frammento di dignità che c'è ancora dentro le loro storie. Qual è il ruolo del lavoro nel recupero di un carcerato? Ma io penso che la cosa che sto scoprendo in questi primi mesi così di mio operato qui dentro, è il lavoro più bello e anche più difficile è quello non tanto di parlare di Dio, perché Dio va oltre le nostre capacità e fa sbocciare la nostalgia di sé da solo. Penso che la cosa veramente che più mi sta stupendo è quella di aiutare un detenuto a rileggere assieme la sua storia. E la cosa commovente è che certe volte vedi che sono loro stessi, una volta che hanno preso coscienza di quella che può essere stata una pagina difficile della loro esistenza, sono loro stessi che prendono le distanze da quello che hanno commesso, che possono aver commesso, prendono le distanze, quasi non si riconoscono in quello che hanno commesso, ed è lì, in quel brevissimo frammento di secondo, di millesimo di secondo, che tu vedi come l'uomo, di fronte in un incrocio, all'incrocio della sua vita, ci abbia veramente due opportunità, o quella di rassegnarsi alla disperazione o quella di tentare di reagire. E lì vedi veramente tante volte mi sembra di immaginare in una fotografia quel bellissimo passaggio che noi celebriamo durante la sequenza pasquale, quando si dice vita e morte si sono affrontati in un prodigioso duello. Ecco, qui dentro noi abitiamo sul confine, su questa zona di crepuscolo tra la vita e la morte, tra la disperazione e la gioia, tra la rassegnazione e un sano protagonismo, tra il bianco e il nero e anche tutti i colori che ci sono nella vita. Quali sono le condizioni del carcere di Padova? Lei prima ha detto che non è un bed and breakfast, però è molto migliore di altre carceri. Eppure con un sovraffollamento che si registra anche a Due Palazzi, se il carcere di Padova può essere considerato un esempio positivo, vuol dire che veramente ci sono delle situazioni difficili in giro per l'Italia. Ma io non ho un'esperienza lunghissima come possono averle i miei parrocchiani di aver girato tantissime carceri. Io abito dentro questo carcere e poi ho lavorato a Regina Coeli quando ho fatto il dottorato giù a Roma. A Regina Coeli c'era una condizione di sovraffollamento spaventosa. Qui siamo sovraffollati, siamo quasi il doppio delle persone che potrebbero essere ospitate. Però questo ci permette tutto sommato di avvertire questo disagio, perché voglio dire, in una cella di 10 metri quadrati viverci tre persone, vivere, mangiare, dormire, fare tutto per 10, 15, 20, 30 anni diventa una cosa anche un po' improponibile, non solo da dire ma anche solo da immaginare. Quindi certamente ci sono delle condizioni che vanno riviste, perché ripeto, l'uomo può sbagliare, ma l'uomo comunque c'è una dignità che va rispettata, ci sono dei diritti che vanno assicurati. E ovviamente già se il carcere si spopolasse un pochino diventerebbe già un po' più l'aria respirabile, e quindi magari, non so, io immagino con l'avvicinarsi anche del caldo torrido dell'estate le condizioni sarebbero un po' meno tese. Però io sono giunto a questa considerazione che piangersi addosso qui non serve a nulla, e quello che serve è rimboccarsi le maniche, cercare di coinvolgere persone, come io sono fortunato, coinvolgendo persone del mondo dello sport, imprenditori, mostrare, dare loro la possibilità di conoscere anche l'altra faccia del carcere. Chissà mai che qualcuno, no, gli si accenda dentro una lampadina, porti dentro un po' di lavoro, cerchi di investire nell'umano, no, ma soprattutto cerchi di dare un senso a tutta questa montagna ore che c'è a disposizione dentro il carcere e che i detenuti per primi ti chiedono tante volte piangendo di poter usare per fare qualcosa di utile. Prima ha parlato di nostalgia di Dio, di ritorno alla fede, che è l'elemento più importante per ridare dignità alle persone che hanno sbagliato. Le ha toccate con mano queste conversioni? Qual è la sua esperienza? Ma toccare con mano le conversioni non so se spetti a me, io penso che sia un qualcosa che spetta a Dio giudicare e anche vedere quello che le persone migliorano. Certamente è sotto gli occhi di tutti la constatazione, penso che aiutare una persona a trovare anche un senso dentro questo periodo di detenzione qua, e un senso nel mio caso significa poter parlare anche di non solo di un orizzonte ma anche di una verticalità, di un Dio che quando l'uomo è per terra tende una mano, che non si dimentica di lui. Penso che questo sia un qualcosa che non solo rasserena il cuore, ma aiuta anche una persona a fare prima pace con se stessa, a pentirsi del male fatto, a diventare uomini migliori. Poi sai, il tema della conversione dentro il carcere è sempre difficile da trattare, perché se uno ci lavora dentro lo sperimenta tutti i giorni che è possibile, che si può fare, che Dio opera dei miracoli. Quando tu lo racconti fuori viene sempre tacciata di essere l'escamotage per la buona condotta. Ecco, allora che preferisco contemplare questi piccoli capolavori nel silenzio di una confessione e assistere, come ho assistito ieri, ad un ragazzo che dopo decine di anni di galera dura ottiene la semilibertà, lo vedi traslocare col suo carrettino, col suo materasso per spostarsi in un'altra zona del carcere. Ecco, penso che questi qua sono le cose che quando noi siamo stanchi la sera che usciamo fuori ci chiediamo tante volte: ma che senso ha con un dottorato in teologia fondamentale stare qua dentro? Ecco, queste qua sono le cose che danno senso non solo al tuo dottorato, ma danno senso ad una vita intera e anche ad un sacerdozio. Cioè, contemplare l'uomo che ha 40, che ha 50, che ha 60 anni, ok, si stupisce perché comincia a fare i piccoli timidi passi di una nuova fase della sua vita. Grazie infinite. Grazie a voi dell'invito e speriamo che gli ascoltatori che ascoltano, soprattutto i preti, oltre alle parole concretizzino anche i fatti, un po' di attenzione anche qui dentro. Ci sono ragazzi, ci sono persone della nostra città, della nostra diocesi, e i detenuti una delle prime cose che chiedono è di poter parlare con i loro parroci. Ecco, speriamo di trovare comprensione in questo. E noi rinnoviamo l'invito. Grazie a voi. Grazie infinite Don Marco. Grazie e buon lavoro. Ci troveremo nuovamente martedì prossimo, sempre alle 18.25, sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Ricordo la mail per contattarci, redazione@bluradioveneto.it, e per riascoltarci il podcast sul nostro sito. Da Andrea Canton un ringraziamento per averci ascoltato ed è tutto, l'appuntamento con noi è la settimana prossima. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Padova.